E anche questa mattina, cari signore e signori, il fuori posto. Il fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno, buongiorno a tutti da Filippo Roma e Umberto Alezio qui accanto a me. Buongiorno a tutti. Umberto, oggi è il primo settembre. Settembre, chi l'avrebbe mai detto? Incredibilmente siamo giunti al primo settembre. Abbiamo sfangato tutto il mese di agosto. Anzi, avrei scommesso che ci avrebbero cacciato via prima. Ci siamo divertiti, abbiamo sofferto, sono stati anche giorni difficili. Veniamo da giorni difficili dove ovviamente non è facile scherzare o fare dell'ironia. E caro Filippo, oggi parliamo di un tema molto serio. Sì, Umberto, oggi parliamo giusto di violenza sulle donne, no? Sì, sì. Pensa che la maggior parte delle violenze sulle donne si consumano all'interno delle mura domestiche. Sì, ed è un fenomeno molto più diffuso di quanto non si pensi, perché purtroppo molte donne che subiscono queste violenze non hanno il coraggio di dirlo, di raccontarlo, di denunciarlo. Perché la maggior parte degli uomini che fanno violenza sulle donne sono persone che magari le hanno amate o le amano. Ovviamente è un amore malato. Distorto, è vero. E se non sbaglio, noi oggi abbiamo delle testimonianze molto importanti, no? In questo senso. Sì, io approfitto per ringraziare le donne che hanno deciso di raccontarci la loro storia drammatica. Chiaramente una violenza non si riesce mai a dimenticare, ma si può cercare di superarla in parte. E Eugenia ha deciso di raccontarci la sua storia. Ci sei, Eugenia? Sì. Ciao Eugenia, buongiorno, grazie di essere telefonata qui con noi. Ecco, raccontaci la tua storia di violenza subita. Quando inizia e come inizia? Allora, è iniziato quasi 10 anni fa, quasi da quando mi sono trasferita a casa nel paese del mio, diciamo, ex compagno. E le violenze, diciamo, sono cominciate quasi da subito. All'inizio esprimeva, diciamo, la sua rabbia, la sua rompendo gli oggetti, per esempio un modem, un telecomando, il vetro della macchina con un pugno. Quando ero incinta, sul quinto mese di gravidanza, ha cominciato a sfogare su di me, si arrabbiava quasi, cioè, senza gravi motivi, senza nessun motivo che gli davo io. Ci stavano i casi, per esempio, che mi ha preso una volta la testa e sbattuto contro il muro, ero incinto sul quinto mese, e con le parole: siccome sei incinta, non ti meno per non far male al bambino. E ti ha preso la testa e te l'ha sbattuta contro il muro. E mi ha sbattuto contro il muro. Questi sono stati, diciamo, primi segnali. Io all'inizio ho perdonato tutto, pensando, cioè, può darsi che è la colpa mia, che lo faccio arrabbiare. Cioè tu ti sentivi in colpa, poi, quasi? Mi sentivo all'inizio, sì, se succedevano queste discussioni pure da parte sua, pensavo che potevo provocare io, non era contento di me, di quello che faccio. Cioè addirittura tu subivi violenza, ma dicevi forse sto sbagliando io, non avevi la consapevolezza, no? Sì, all'inizio era così. Tu eri innamorata di quest'uomo? Inizialmente, primo anno, così, quando ho visto, si è presentato prima tutto tranquillo, tutto aperto, bravo ragazzo, e dopo, diciamo, ha tolto la maschera già dopo, quando ero incinta. Allora mi sentivo prigioniera nelle sue mani, anche perché i miei parenti stavano all'estero, tutti quanti stavano all'estero, gli amici, e stavo sola. E quando chiedevo, quando uscivo, dico: prendimi con te, fammi conoscere i tuoi amici, fammi socializzare un po', lui mi rispondeva che il compito, il ruolo della donna è stare a casa con bambini e i maschi possono andare a spasso. Quindi poi un vero inferno è cominciato quando è nato bambino, quando era piccolo, ancora lattavo. Per esempio, sono stati casi che mi minava Io tenevo in braccio il bambino, in quel momento non potevo neanche chiudermi, proteggermi la faccia, quindi mi dava gli schiaffi, mi dava i calci sulla faccia, nonostante che proprio in quel momento tenevo il bambino in braccio, il bambino piangeva, lui era tutto... Poi arrabbiava con me, senza motivi, senza... Qual è il momento più difficile? Ovviamente tutto è stato difficile, immagino, di questo vostro rapporto, ma c'è stato un momento particolarmente drammatico che hai avuto paura di morire? Un paio di volte, sì, perché qualche volta, perché lui con gli anni, passando gli anni, questo diciamo è cominciato 10 anni fa, quindi con gli anni si aggravava di più questa situazione, quindi lui è arrivato pure a farmi le ferite gravi, una volta mi ha preso la testa e ha ferito, ha spaccato contro l'angolo del tavolo, perché era arrabbiata con me, sempre senza motivo, magari stava avevo problemi sul lavoro e poi scaricava su di me questa rabbia. Certo, senti, ascolta, dentro casa. Con quale frequenza te le dava? Poteva succedere che quasi ogni settimana, oppure anche più raro, passavano 3-4 mesi tra i casi. Però sempre con le parole, pure mi... diminuivo come persona, come dice, tu sei come la persona di seconda scelta, perché non sei italiana, quindi tua nazione siete tutti quanti paese del terzo mondo, e più altre cose mi faceva che non... Quindi era anche una violenza con le parole, psicologica. Sì, psicologica. Senti, quando è che hai trovato il coraggio di denunciarlo? Quando è che hai detto non ne posso più, devo denunciarlo, se no va a finire male? Sì, dopo un anno, bambino aveva circa un anno, 8 mesi, e quando mi ha spaccato la testa contro il tavolo, io ho voluto di andare al carabiniere a denunciare. Siccome non conoscevo ancora le leggi bene, le regole, i suoi parenti mi dicevano: se tu vai a denunciarlo, arriva un assistente sociale e ti tolgono il bambino. Ah, quindi io... avevi anche la sua famiglia contro di te? Sì, le zie, i genitori, quindi mi dicevano sempre: se tu vai a denunciare ti tolgono bambino. E tu invece hai denunciato, giusto? Allora è passato poi circa 4 anni, io poi ho guadagnato un po' di soldi facendo questo lavoro, strappandomi sempre tra lavoro, bambino, la casa, e ho guadagnato un po' di soldi, ho trovato un avvocato e diciamo, proceduto con separazione. Però il problema è stato che io sono rimasta a casa sua, e la casa era divisa su due parti, sopra stavano i genitori e sotto diciamo, stavamo noi con la famiglia. E lui è stato a vivere con i genitori, quindi è rimasto sempre presente nella mia vita. E continuava a molestarti? Continuava a alzare le mani, offendermi con le parole, non pagava le vendite per bambino e tutto il resto. Quindi io la prima denuncia, poi sono passati circa 4 anni, ho fatto la prima denuncia perché mi ha minato davanti al bambino, rompendo la porta con i calci, la porta d'ingresso, e entrato, e poi cominciato tutto arrabbiato a minarmi davanti al bambino. Eugenia, sì. Adesso la tua vita com'è cambiata? Allora, queste diciamo storie sono continuate fino a un anno e mezzo fa, quindi un anno e mezzo fa mi ha menato un'altra volta fortissimo, già ero divorziata con lui, quindi già abbiamo fatto processo di separazione, di divorzio, quindi lui era una persona strana, niente ci univa, solo il bambino, e lui era sempre arrabbiato, di più, quindi dopo 9 anni è arrivato a questo, proprio stavo come un animale quasi, non era più la persona, sempre arrabbiato con me, e mi ha fratturato il naso dando un sacco di calci sul corpo, sul viso. È stato un anno e mezzo fa e sono andata in ospedale e là mi hanno consigliato di andare da un centro antiviolenza, mi sono rivolto al centro antiviolenza e dopo il percorso mi sono cominciata a sentire libera. Anche il percorso mi hanno aiutato sia dal punto di vista psicologico e dal punto di vista di conoscenza di leggi che dicevano che posso svolgere tranquillamente le denunce. Eugenia, con una parola, no? Come definiresti lo stato d'animo che provavi quando subivi queste violenze? Io ero spaesata, sentivo un disagio, sentivo diciamo come non protetto, non sapevo come proteggermi, non sapevo, preoccupazione anche per bambino, perché bambino insieme a me anche ha subito le violenze psicologiche che vivendo in mezzo a queste discussioni, vivendo come meno la mamma, lui poi il mio ex marito offendeva pure bambino, e quindi la mia preoccupazione era non solo per me ma anche per, ma certo, bambino, ma anche per tuo figlio, ci mancherebbe. Sono scioccante anche per lui. Eugenia, grazie di questa tua testimonianza, grazie tante. Grazie Eugenia. Ciao, grazie. Eugenia, grazie e in bocca al lupo per tutto. È una storia sanguinolenta questa di Eugenia, cioè la testa sbattuta sul spigolo del tavolo, il sangue, l'ospedale, qualcosa di disumano. Sì, disumano. Devo dire che in tutta questa vicenda orribile, la cosa che ho trovato ancora più orribile è che non solo questa persona che l'ex marito le provocava violenze quotidiane, no? Ma la cosa che ho trovato agghiacciante è che i parenti del marito continuavano a proteggerlo, no? Cioè è una roba che non si può commentare, che è disumana, ma purtroppo non è un caso isolato, ci sono tante altre donne che subiscono queste violenze da parte dei propri uomini. E oggi con noi abbiamo un'altra persona che a suo tempo ha subito gravi violenze da parte del compagno. Sì, per fortuna oggi le ha superate, sicuramente in parte, perché una violenza non si supera mai totalmente. E dico bene, Barbara? Sì, dici bene. Ciao Barbara, grazie. Ciao. di essere intervenuta. E ti ringraziamo perché sappiamo che non è facile parlare di certi argomenti in pubblico, però pensiamo anche che possa essere d'aiuto a chi ci sta ascoltando, no? Certo, sì. Come inizia la tua storia di violenze? Praticamente io ho iniziato con un fidanzamento di una persona che mi ha saputo corteggiare abbastanza bene, il quale aveva il problema del gioco. Aveva visto in me la gallina dalle uova d'oro, perché colei che la poteva aiutare nel pagare, tra virgolette, i cosiddetti debiti di gioco. Quindi all'inizio ti chiedeva i soldi? In modo indiretto, sì, sai, ho perso dei soldi, devo dare dei soldi a, da adesso arrivano gli zingari lì, rischio di, quindi io, siccome comunque vengo da una famiglia benestante, riusciva a tamponare le sue esigenze, quindi i suoi debiti. Però ero tipo, avevo diciamo gli occhi coperti, come si dice, dal prosciutto. Perché eri innamorata? Mi aveva saputo prendere inizialmente, da un periodo di corteggiamento fatto in un modo abbastanza minuzioso, quindi molte attenzioni, quindi io questo diciamo il suo lato l'ho visto in un successivo momento, dopo che lui mi aveva fatto innamorare. Per lui era scontato che io quindi l'aiutassi, perché ogni volta aveva bisogno di soldi, arrivavo io, quanto ti serve là, quanto ti serve qui, quanto ti serve di lì, e insomma lui in me, non so se era innamorato o meno, io me lo sono sempre chiesto e penso tutt'oggi di essere arrivata alla soluzione, no, sicuramente no. Forse era innamorato più dei tuoi soldi? Nella mia situazione, sì, bravo. Se non che quando poi io sono arrivata al punto di fare la Croce Rossina, io lo salverò, riuscirò a toglierlo dal giro del gioco, era ormai troppo tardi perché c'ero proprio dentro tutta completamente. Quando lui appunto giocava, io mi arrabbiavo lì, anche durante il periodo di fidanzamento durato 3 anni, lui menava davanti a tutti, cioè andava sulle furie, schiaffi. Ti ricordi quando è la prima volta che ti ha menato? Beh, guarda, noi nel 99 ci siamo cominciati a frequentare, dopo 6-7 mesi è uscito questo suo lato negativo del gioco, capito? E quindi anche in questa situazione che io dopo un po' non reggevo più, perché sì, è vero che ero innamorata, però gli dicevo sempre, ma perché spendi, perché giochi? E questo suo chiedere, perché lo mandava in escandescenza, perché aveva perso prima, io che anziché dirgli oddio poverino, gli dicevo ma non lo devi fare più, quindi si sentiva braccato un po' da me e un po' dalla sua famiglia che sapeva che aveva questo problema. Mentre la ragazza di prima, che non so se hai ascoltato, sì, no, ci ha detto che no, la famiglia, la cosa più agghiacciante è che la famiglia proteggeva il mostro, no? Proteggeva chi la pecchia. Stessa identica cosa. A tutt'oggi ancora, cioè lui è il povero ragazzo che, e io sono il mostro che non gli fa vedere il figlio, quando invece è un tribunale che non glielo fa vedere, quindi neanche ai nonni. Io sono il mostro che, perché all'inverso, lui invece è bravo. Questo per quanto tempo hai accettato queste violenze da parte sua? Guarda, io ho appena nato il bambino, già durante la gravidanza con l'altra ragazza, dopo 2 mesi ho ricevuto un calcio sullo stomaco, però anche lì, sai, ci aspettiamo magari con la nascita del bambino cambia, invece è peggiorato. Il bambino aveva 6 mesi, io sono andata via e ho avuto proprio tutte le botte precedentemente, ma lì ho avuto anche ricevuto delle botte anche davanti ai testimoni, che poi insomma in fase di udienza hanno testimoniato e lui ha preso condanna per maltrattamento in famiglia. Senti, tu hai pensato di non farcele in qualche momento particolarmente difficile? Assolutamente no, forse questa è la mia forza che ho dentro, ma per mio figlio. Inizialmente non mi pesava tanto, perché sai, quando sei fidanzata, poi quando c'è un figlio purtroppo devi andare avanti, ti devi alzare per forza, quindi lo dovevo fare per mio figlio. E quando è che hai trovato il coraggio di denunciarlo? Beh, io mi sono separata appena sposata dopo un mese, quindi già lì, perché ho ricevuto botte e quant'altro, dopo 2 mesi ho fatto una prima denuncia e un atto di separazione. Dopodiché lui è tornato sui suoi passi, mi sono fatta sempre per virgolette in pietosia, siamo tornati assieme, è nato il bambino, nuovamente l'ho denunciato. È nato il bambino e hai ricominciato a menarti? Sì. Cioè, questo individuo poi è stato arrestato, condannato? Il problema più grande è che io mi sono rivolta anche al centro violenza anche per questo, perché io non ho più fiducia nella giustizia, perché lui ha 6 condanne tra maltrattamenti in famiglia. 6 condanne? Sì, anche per mancanza di alimenti, comunque 6 condanne. Ed è a piede libero? Sì. E io sono arrabbiata, perché l'ultima denuncia è stata fatta 2 anni fa, perché durante la riunione di mio figlio ha avuto degli atteggiamenti, insomma, su Facebook sono andata a finire. E sai qual è stata la condanna? Patteggiato, cioè il patteggiamento in Italia. Tu hai paura che lui possa tornare da te e continuare? No, questo no, penso di no. Cioè te ne sei liberata? No, liberata no. Io ti dico la verità, io quando esco mi guardo sempre dietro. Cioè tu vivi in uno stato costante di paura? Sì, non proprio di paura, però di timore, perché comunque non sai mai se te lo puoi trovare dietro o cosa può fare, perché queste persone non sai mai cosa realmente pensano. Cioè, tu non lo sai se realmente nella sua mente tu non ci sei più, o se magari da qui a 10 anni può succedere di tutto, ne vediamo tante, ne sentiamo tante, quindi in realtà io sono preoccupata per questo motivo. Per me, ma soprattutto per mio figlio e per i miei parenti, ma per mio figlio in primis, perché se succede qualcosa a me, mio figlio è solo. Senti, secondo te riuscirai un giorno ad avere una vita normale? Solo se a lui mi faranno fare un percorso, perché io penso che l'unica soluzione ottimale sia imporre a queste persone che anche fanno un piccolo gesto di maltrattamento, da uno stalking, da un percorsi di recupero, cosa che non viene in Italia, non viene da nessuna parte. Io quello che condanno, io condanno la giustizia, perché è la giustizia che porta poi agli episodi di morte, di violenza grave, perché se ci fosse una giustizia più forte in Italia, tutte queste cose non succederebbero assolutamente a nessuna donna. A proposito di questo, perché mi sembra di capire che c'è il dente avvelenato, no? Anche sì, ovviamente sì. Giustamente, che ti viene di dire a chi ci sta ascoltando, no? A chi potrebbe tutelarti e non l'ha fatto? Beh, Io il problema è che è la fonte, il problema sono le leggi, il problema è quindi diciamo è al vertice, perché se ci sono le leggi che permettono a questi individui di continuare, di avere la continuità nei loro atteggiamenti, non arriveremo mai alla soluzione. È inutile che poi piangiamo le donne morte, piangiamo i bambini che vedono violenza sulle proprie mamme. Quindi io credo che bisogna a monte far capire che nel momento in cui il soggetto, anche con un solo atto di violenza, deve essere bloccato, non si può dare la possibilità a questi individui di poter patteggiare o comunque di poter poi continuare a fare quello che hanno sempre fatto, perché non sono spaventati, cioè nessuno li mette al muro, con le spalle al muro. Grazie Barbara, grazie per la tua testimonianza. Allora Umberto, abbiamo appena ascoltato la storia di due donne, Eugenia e Barbara, che hanno subito gravi maltrattamenti da parte dei rispettivi compagni, maltrattamenti che purtroppo hanno lasciato tuttora degli strascichi a livello psicologico, ma in parte sono riuscite a trovare conforto, a trovare una via per uscire da questo incubo, anche grazie al centro antiviolenza La Fenice di Teramo, che è proprio un luogo dove donne che subiscono violenze trovano conforto psicologico. E sono state seguite entrambe dalla dottoressa psicologa e psicoterapeuta Cristina Bellocchio, che è un'amica di Fuori Posto e oggi ha deciso di intervenire per raccontarci come si sviluppa la violenza sulle donne e in questo caso come si sviluppa la violenza domestica. E ci sei Cristina? Buongiorno. Benvenuta ai Fuori Posto. Grazie. Allora, sono due storie di violenza domestica, no? La cosa che ha lasciato stupiti me, Filippo e tutti quelli che ci ascoltano e che ci continuano a scriverci è che non solo i due uomini che praticavano la violenza, quindi ovviamente i due mostri che in questo caso malmenavano le rispettive compagne, ma anche le rispettive famiglie tendevano a proteggerli. Allora, intanto lavoro in questo centro da molti anni e una cosa che vorrei dire è che tutte le storie sono diverse le una dalle altre, quindi diciamo che questo aspetto che la famiglia protegge l'uomo violento non è sempre così. Ci sono però dei comuni denominatori che abbiamo notato in questa storia, innanzitutto che questi uomini sono degli uomini molto concentrati su loro stessi, che considerano la donna quasi un oggetto da sfruttare e non considerano quindi i loro bisogni neanche in gravidanza, come abbiamo visto. Sono degli uomini che hanno una personalità, diciamo, un narcisista patologico. Sono degli uomini comuni, però hanno un lavoro normale, anzi sono ben voluti dalle persone. Che a volte sembrano, all'inizio sembrano tutti perfetti, no? Corteggiatori, sì, esatto. Gentili, carini. Esatto, c'è la classica luna di miele in cui loro si presentano nella loro veste migliore e non fanno trapelare assolutamente il fatto che loro siano delle persone aggressive. Cioè, la cosa che abbiamo notato, sia ascoltando la storia di Eugenia che quella di Barbara, è che queste donne che subiscono le violenze domestiche ci mettono sempre un po' troppo, no, prima di uscire allo scoperto, prima di denunciare gli aguzzini. Perché? Esatto. Allora, intanto sono delle donne che, come abbiamo visto, hanno una tolleranza molto elevata a situazioni di violenza e questo deriva da una loro storia personale. I meccanismi che scattano è colpa mia se lui è violento, magari l'ho provocato, e poi c'è sempre la speranza che lui possa cambiare. Spesso sono donne crocerossine che tentano in un certo senso di assecondare questi uomini sperando che loro non si alterino, ma con il tempo arrivano a capire che è una caratteristica proprio di queste personalità e quindi non è colpa loro. Nel momento in cui capiscono questo iniziano in qualche modo a pensare di lasciarlo. Senti, è vero Cristina che la maggior parte delle violenze sulle donne si sviluppa all'interno delle mura domestiche? Sì, sicuramente. Al centro antiviolenza la maggior parte delle donne subisce violenza o dal marito o dal compagno oppure anche da un ex partner, quindi sono, diciamo, le persone che si travestono da soggetti che dicono di amarle, poi sono quelle che fanno del male. E quindi la violenza in realtà è una dinamica molto subdola e difficile da riconoscere, soprattutto perché questi uomini non sono sempre violenti, come abbiamo visto, si presentano come il principe azzurro, ci sono degli episodi di violenza, ma loro subito chiedono scusa, si pentono. E quindi la donna innamorata in questo caso è sempre disposta a perdonare, è più fragile e comprensiva. Sì. Cosa diresti a una donna che sta subendo in questo momento violenza dal proprio compagno e ancora non ha trovato il coraggio di denunciarlo? Beh, allora, intanto al centro antiviolenza la nostra priorità è quello che la donna si liberi dalla violenza, quindi può scegliere di denunciare come scegliere di non denunciare. La donna è libera di uscire dalla violenza nel modo più opportuno. Però diciamo che sarebbe opportuno comunque, no? O anzi doveroso denunciare, no? Se uno subisce delle forti violenze in casa, no? O delle violenze poi. Sarebbe meglio, però ci sono delle situazioni molto delicate in cui appunto la donna si sente in colpa magari a denunciare il padre dei suoi figli, quindi in quei casi la cosa prioritaria è che si liberi dalla violenza ascoltando i propri sentimenti. Senti Cristina, c'è un numero che possiamo dare a chi in questo momento subisce una violenza? Certo, tutte le donne si possono rivolgere al 1522, che è il numero nazionale antiviolenza, che collegherà poi la donna al centro antiviolenza più vicino. Ovviamente tutti i centri antiviolenza sono gratuiti e quindi anche le donne che sono in difficoltà possono chiedere aiuto. Cristina, grazie tante dei tuoi preziosissimi consigli. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao. Salutiamo Cristina Bellocchio, psicologa, psicoterapeuta del centro antiviolenza La Fenice di Teramo. I fuori posto. Grande, grandissimo Freddie Mercury, chi non l'ha riconosciuto, che ahimè in una brutta domenica di novembre del 1991 ci ha lasciati. No, fermo. Tu pensi che ci abbia lasciato? Ci ha lasciato, purtroppo è morto. Beh. No. Hai appena detto una cazzata. Freddie Mercury non è morto, o meglio, non si muove più il suo corpo, no? Ma il suo spirito si è rincarnato. Ma dove si è rincarnato? Il suo spirito è volato in cielo, sì, e poi è ritornato sulla terra. Dove? Dannato. A Manduria, in Puglia. Veramente? In Puglia, sì. E si è rincarnato, no, in Piero Veneri, no, che è in arte Freddie Mercury. Giusto, Piero? Sì, sì. Buonasera a tutti. Sono Piero Veneri e sono molto felice di potervi ascoltare e sentire dalla vostra voce che Freddie Mercury effettivamente non è morto, ma è più vivo che mai. Allora, tu sei, diciamolo per i nostri radioascoltatori, sì, tu sei un ex pescivendolo, no? Sì, che è un ex pescivendolo, nonché anche un ex cavaliere dei lancieri di Montebello, pure. Che a un certo punto si è identificato in Freddie Mercury. Io l'ho conosciuto, Piero, sono stato con lui e praticamente lui vive, no, facendo il sosia di Freddie Mercury. Ah, perché lui è uguale a Freddie Mercury? Sì. Lui è identico. Proprio col baffetto, con i capelli, proprio uguale. Sì, sono l'impersonificatore. Rispecchio esattamente il Freddie Mercury del 1986, del suo famosissimo Magic Tour. Con quel taglio di capelli, stesso taglio di baffi. Con quel fisico asciutto che c'era Freddie Mercury, scattante sul palco. Beh, dico che sono abbastanza, diciamo, impressionante. Vabbè, un po' di pancetta ce l'hai, di verità. Basta visitare il mio sito, se posso dirlo, www.whitequeen.it, e capirete, insomma, quello che sto dicendo. Ed è partita la marchetta. Qua. Mannaggia te. Senti, ma spiegaci una cosa. Cosa c'è in te dello spirito di Freddie Mercury? In me c'è una forza divina. Non per niente vengo da Manduria, la terra del vino, e sono l'unico cantante di vino, con un trattino di umiltà. Ah, divino. Beh, si sente che sei. Sono l'unico divino. E quindi c'è una voce, no? O meglio dire una leggenda, che dice: quando qualcuno muore prematuramente, erroneamente, una certa forza divina dà un'altra possibilità. Quindi ha fatto sì che Freddie Mercury ritornasse in vita usando il mio corpo. Ma non ho capito, cioè, tu fai limitazione, cioè Piero, tu un attimino errata. Piero, tu fai l'imitazione di Freddie Mercury, no? Fai proprio imiti i numeri che hanno fatto, giusto? O sei convinto di essere proprio Freddie Mercury sceso in terra? Imitare è banale, dico che lo impersonifico, quindi io mi sento il re di vivo. Ma scusa una cosa, ma oltre a essere molto somigliante a Freddie Mercury, ma c'hai pure la voce come Freddie Mercury? Diciamo che sicuramente riesco ad incarnarla, la voce è molto similare. Ma io non ci credo, ma non ci credo che... Insomma, al corpo e alle capacità vocali di questo italiano che ha scelto, però fondamentalmente questo 10 luglio ho compiuto 13 anni di attività, 13 anni di White Queen. Sì, sì, ma Piero, sono 13 anni che tu campi sulle spalle di Freddie Mercury, cioè facendo le imitazioni? 13 anni che io campo grazie a Freddie Mercury. Ho capito, ma io non ci credo che tu c'hai la voce come Freddie Mercury. Adesso io, caro Umberto, la voglio sentire sta voce. Vai, mettiamola alla prova. Dai, vogliamo sentire qualcosa a cappella? Vai, Freddie, una cosa a piacere, vai. Vado. Tonight I gonna have myself a very good time. I feel alive, I, and the world suddenly shut out. Oh, questo è Freddie, eh? Cazzo, è uguale. Oh, i brividi. È lui. Guarda. Devo dire che non sei molto amato, perché siamo sommersi dalle mail e dai WhatsApp. Cioè, ci scrive Valentina, per esempio, ci dice che sei il Freddie Mercury della Manduria dei poveri. Come gli rispondiamo a Valentina? Sicuramente, perché io sono Freddie Mercury dei poveri, ma sono Freddie Mercury delle donne, e questa è la mia ricchezza. In che senso delle donne? Ma Freddie Mercury... Certo, perché io ho consegnato Freddie Mercury finalmente a quelle donne che non l'hanno potuto avere. Ma perché tu non sei come Freddie Mercury fino in fondo, no, cioè a lui piacevano gli uomini, a te... Lui sta riscattando il suo errore, quello di aver sconsiderato le donne, e che quindi l'ha portato così ad una morte prematura. Ma è vero che proprio perché per questa tua aria da playboy una volta stava finendo male, no? Che ti è successo? Sì, ricordo bene, insomma, che all'inizio una ragazza si era... Eri fidanzato, no? ...non conoscermi, ed era anche una ragazza fidanzata. Iniziava a scrivermi tramite email, a un certo punto si riesce a realizzare così un appuntamento, questo appuntamento salta, vengo chiamato dalla cugina, la quale mi avvisa che il fidanzato aveva scoperto le nostre mail e che andava in giro armato di pistola, che mi stava cercando. E t'ha trovato? No, fortunatamente no. Ma scusa, questo che ti voleva sparare... Non posso morire più una seconda volta. Ma scusa, questo che ti voleva sparare, non gli potevi dire, scusa, ma piglia delle coffre di Mercoli, io che c'entro, so Piero Veneri, no? Ma fondamentalmente non ho avuto modo proprio di conoscerlo. Però dico, non ci fa stare in pensiero, Stai attento. Di avere una comunione, diciamo, sociale con questa persona. Andata a finire così. Ammazza Freddie Mercury quando parla. Freddie, aspetta, bloccate un attimo. Freddie, che cazzo? Fermati un attimo. Allora, facciamo un appello, Filippo, perché non vorrei avere Freddie Mercury sulla coscienza. Anche perché, no? Aspetta, Umberto, uno è morto. Era andata così, ma abbiamo scoperto che invece è redivivo, e quindi questo... L'altro rischia di morire. No, teniamocelo stretto, visto che è rinato a Manduria. Allora, quindi... io direi a questo presunto fidanzato cornuto, sì, vabbè, sarà stata una scappatella, però capisci, la c'aveva, no, ma non c'è stata la possibilità. È stata questa la cosa più assurda, perché ho rischiato di rimorire. E punto, porca miseria, sennò... non l'ho mai incontrata poi. Senti, vabbè, comunque diciamolo al presunto fidanzato tradito, sì, cioè mettiti nei panni di questa che aveva la possibilità di andare a letto con Freddie Mercury, chiunque ci andrebbe, e poi diciamolo, è un patrimonio dell'umanità e sta a Manduria. Peraltro so che poi adesso c'è un negozio di un panificio dei taralli, no? Giusto? Sì, il panificio ovviamente dei miei genitori, o meglio di mio fratello. Facciamo un po' di pubblicità al volo qui su Radio 24, che sono generosi. Come si chiama il panificio? Il panificio si chiama il Gran Forno Artigianale, si trova in via Ribezzo numero 24, Manduria, Taranto. Allora, fermi un attimo, sta zitto un attimo, Freddie. Allora, se volete mangiare un pezzo di pane buono o dei taralli squisiti, andate al panificio di Freddie, che vi mangiate il tarallo e avete pure la possibilità di fare quattro chiacchiere con Freddie Mercury. No, facci una foto, riconoscerlo. Non è mica banale. Ma scusa una cosa, ma tu ti esibisci? Fai sì, mi esibisco, ripeto, vuol dire proprio il 10 luglio ho compiuto 13 anni di attività White Queen, che è una tribute band dei Queen. Quindi fai proprio un concerto, tu sali sul palco e fai tutte le canzoni dei Queen di fronte a un pubblico. Inevitabilmente i brani di più grande successo, poi facendo anche una carrellata di costumi, non è soltanto un tributo musicale, ma bensì anche scenografico. coreografico con ben 15 abiti di costume che vanno ad alternarsi nelle due ore di spettacolo. Diciamo che l'attività ti va molto bene, no? Quante date farai all'anno? Tantissime, giusto? Ah, guarda, ho chiuso il 2015 con 97 concerti. Con 97. Senti, facciamo anche un servizio. Se uno vuole Freddie Mercury, quanto deve spendere? Beh, fondamentalmente è qualcosa che non vorrei insomma dire. Diccelo, più o meno. Non spifferare, se permettete, insomma. Però, dico semplicemente che vedere Freddie Mercury non ha prezzo, già da questo vi faccio intendere. Però una cosa a onor del vero te la devo dire io, no? Non ti incazzare, Freddie, mi raccomando. Tu qualche anno fa hai avuto un piccolissimo problemino di evasione fiscale, no? Ma che è ancora... anche grandissimo problema, perché noi abbiamo i problemi. Sei stato accusato di aver evaso al fisco più di 500.000 euro, giusto? Sì, e questa è l'invidia della società, naturalmente. Ma perché... come si sono permessi di romperti le scatole queste agenzie delle entrate? Come mai? Perché? Cioè, ne avevi mai fatto una fattura? Tutto va come deve andare, ovviamente sono un profeta, come l'è stato Gesù Cristo, insomma. Perché non paghi le... Ho capito, sei un profeta, però puoi pagare le tasse, no? Ma non toccano a me, se pagare le tasse vuol dire toccano a Freddie Mercury, cioè io hai capito che paraculo che sei. Io se vado al ristorante sono sempre, diciamo, pagato e coperto da Freddie Mercury. Tu sei il paraculo di Manduri, altro che Freddie Mercury di Manduri. Sicuramente il prescelto. Ma sì, il prescelto è il cazzo, cioè devi pagare le tasse, perché pagare le tasse, lo disse anche un ex ministro, è una cosa bellissima. Ma se sto dicendo che le paga Freddie Mercury, non ti sto dicendo che non le paga. Hai capito, Filippo? Te lo spiego, lui praticamente dice... È Freddie Mercury che le pagherà per me. Cioè praticamente, praticamente i soldi li prende Piero Veneri, invece le tasse le deve pagare Freddie Mercury, giusto? Bello, è facile così. Senti, lavoro, però, senti, prima di lasciarci però, noi siamo troppo curiosi, quanto prendi a serata? Dai, diccelo. Non posso spifferarlo, mi dispiace. Ma dai, magari ti ascolta qualche qualcuno, ti ingaggia, dai. Di mistero, insomma. Vabbè, allora fai una cosa, salutaci con un altro tuo cavallo di battaglia. Vai. Il più grande, il più glorioso. We are the champions. Vai. We are the champions, my friend. And we are keep on fighting to the end. Io mi sto emozionando, c'ho la pelle d'oca. We are the champions. È lui. Redivivo il fuori posto Radio 24 con Freddie Mercury. Cazzo, che acuto finale. Grazie mille, Freddie. Grazie di questo momento splendido. Cioè, ti rendi conto? Noi fuori posto, due coglioni qualsiasi, abbiamo riportato i microfoni di Radio 24, non Tiziano Ferro, non Laura Pausini, ma... Vabbè, ma Freddie Mercury, ma questa è una notizia, adesso lo lanciano all'Ansa. Cioè, noi abbiamo scoperto Freddie Mercury redivivo. Hai capito? Comunque, diciamolo chiaramente, le tasse vanno pagate, anche se un po' ci scoccia, no? Sì, pure Freddie Mercury deve pagare le tasse. E quindi pure Freddie Mercury gli tocca però pagare. Però non ci ha voluto dire quanto prende per ogni serata, chissà perché. Se non, quindi cioè, facciamo un appello, insomma, a Freddie o a Piero. Sì, cioè, perché... paga le tasse, lavori, paga le tasse, no? Da sto orecchio non ci può sentire, Piero. Tanto bravo, c'è una bella voce, sembra veramente Freddie Mercury. Comunque, ma non vedi, a suo modo, Piero, che faceva il pescivendolo a Manduria, ha trovato un posto nel mondo, perché si è trasformato in Freddie Mercury, si è inventato un lavoro, un po' come noi, e adesso tira a campare, no? Che vogliamo dire a tutti quelli che in questo momento magari stanno sotto l'ombrellone o negli stabilimenti balneari di tutta Italia ad ascoltarci? Non vi preoccupate che prima o poi anche voi troverete il vostro posto. Sì, sì. Guarda, ci stiamo rivolgendo a te che sei sotto l'ombrellone e stai pensando che con tua moglie che ti rompe le palle e con i tuoi bambini che fanno casino e che vorresti stare con la tua amante. Quindi a te... pensa che prima o poi anche tu potrai trovare la tua giusta collocazione, che è o divorziato e rovinato oppure felice con l'amante, no? Intanto spera che finisca più presto la vacanza, dai, è quasi fatta. Noi ci vediamo tra poco, sempre qui su Radio 24, i fuori posto. I fuori posto. A te non piace il rock? A te non piace il blues, a te ti piace sul lamento Bobby, fa mano Bobby. Scusa, possibile che noi dobbiamo entrare con questa canzone, con questa melodia? È arrivato il momento che non avrei mai voluto vivere. Però pare che, insomma, è agosto, pieno agosto, e pare che Ciruzzo in questo momento si trovi in una località molto segreta, no? Addirittura? Sì, sì, in vacanza, con un amico d'eccezione. Chi è questo amico, Filippo? Questo amico, incredibilmente, è il nostro ministro dell'economia, Piercarlo Padoan, cosa che non ci saremmo mai aspettati. Cioè, Ciruzzo Tozzi e Piercarlo Padoan, ministro in carica dell'economia del governo Renzi, sono in vacanza insieme? Sono in vacanza insieme, è una notizia che possiamo dare ufficialmente. Sono in vacanza addirittura insieme. Vabbè, sì. A questo punto solo noi dei Fuori Posto possiamo collegarci in diretta in questo istante. Proviamo a vedere se va a buon fine il collegamento. Pronto? Pronto, ragazzi, tutto bene? Tutto bene, ministro, buongiorno. No, il ministro sta di là, scusate ragazzi, adesso sono Ciruzzo, Ma perché rispondi sempre tu al telefono? Cioè noi chiamiamo il cellulare perché? Del ministro e rispondi tu. No, c'ha da fare, perché ieri mi ha fatto degli spaghetti, veramente una cosa... Ah, i fusi spaghetti. Ma ringrazia che ti ha fatto gli spaghetti. No, ma se, lui si è voluto mettere in mezzo. Io ci ho detto, lascia stare, non è cosa tua, hai capito? Lui adesso mi sta curando un po' l'immagine, soprattutto sta curando un po' le mie serate, fa un po' da gente. Ma che scherziamo? Ma uno come Padoan, che c'ha tanto da fare, sta a pensare alle tue serate, ma che scherziamo? Allora ecco perché detto, l'economia, insomma, in Italia. Ecco perché il PIL non sale. Ecco perché il PIL non ci stanno più. Allora, io vuoi parlare del PIL? Parliamo del PIL. No, lasciamo stare il PIL, perché se ne smettiamo a vedere il PIL nel luogo. Non vediamo una cosa. Il prodotto interno lordo. Che uomo banale che sei, guarda. Sì, certo. I nostri ascoltatori ci stanno scrivendo ai Fuori Posto, io c'ho la radio24.it, dicono: dov'è il ministro dell'economia e Ciruzzo Tozzi in vacanza? In quale località segreta sono? Si trovano adesso? No, nessuna località segreta. In questo momento, diciamo, siamo in una. Siamo andati a dei miei amici qua a Baia Domizia. A Baia Domizia? Sì. Al mare. Ma come, uno si aspetta Cannes, Costa Azzurra, insomma, Porto Cervo. No, siamo ospiti di una mia amica Patrizia. Patrizia. E dormite da Patrizia, te il ministro? Sì, Patrizia, è la reginetta qui a Baia Domizia. La reginetta di cosa? Ho paura a chiedertelo. Baia Domizia. E perché viene chiamata la reginetta di Baia Domizia, Patrizia? Perché sono qualcosa come 43 anni che vince ogni anno sempre Miss Baia Domizia. 43 anni? Quanti anni ha, cioè, scusa? Cioè, adesso ce n'ha 56. Da 56 anni? Fai un attimo i conti. Dall'età di piccolina cosa faccio? Cioè, da quando c'ha 12 anni? Miss Baby Baia Domizia, poi ha fatto Miss Nanchers Baia Domizia, Miss Ragazza Baia Domizia, poi la donna di Baia Domizia, poi sta adesso facendo allora. C'è una ragazza veramente che sta vincendo tutto, Attento. Sì, una carriera coronata dal successo, no? E però vi dico una cosa in segreto, dici in esclusiva per Radio 24, ricordiamolo. E prima era la nipote del sindaco, prima anni fa, era perché adesso non più, scusa. Adesso è la nipote di quello che c'è tutti i supermercati qua, diciamo è la sorella di questo qua che c'è tutti i supermercati, insomma è stata sempre... Che è anche lo sponsor di Miss Baia Domizia, immagino. Brava. Senti, ma allora, è vero di sto flirt, perché qualche paparazzata l'avete avuta, no? Mi pare lì a Baia Domizia, mi dicevi. Sì, purtroppo sono dei fotografi qua e hanno fotografato. Ma sono venuti per il ministro, no? Perché si vocifera di questo flirt tra il ministro Padoan e questa Patrizia, no? Sono venuti perché il ministro l'ha chiamati, ha fatto un po' addirittura il ministro ha chiamato i fotografi. Ha detto: sentite, venite qua. Allora hanno detto questi fotografi: scusate, signor ministro, ma questa è la Baia Domizia, ma dobbiamo segnalare per voi. E allora ha detto il ministro: guardate, ci sta anche Ciruzzo Tozzi. Anche i fotografi hanno detto: va bene, allora veniamo subito. Certo, perché era il colpaccio. Ciruzzo Tozzi e il ministro Padoan insieme. Guardi, mando anche la fotografia io e lui abbracciati sotto l'ombrellone. Ma che bello, veramente ce l'hai. Allora fai una cosa, ci mandi la foto sulla nostra pagina ufficiale Facebook i Fuori Posto? Sì, mi mando la foto un attimo, glielo chiedo a lui se è possibile. Scusami. Ah, vedi, è educato oggi, però. Sì, oggi è rispettoso. La vogliamo fare questa fotografia, gliela mandiamo tutti e due insieme? No. Ministro, sappiamo di questa foto, faccia questo sforzo. No, saremmo molto curiosi di vedere questa foto, possiamo? Purtroppo io, ragazzi, per un fatto anche di privacy, non vorrei fare questa foto. Ma Ciruzzo sta facendo il collegamento in radio, lo sta raccontando tutta Italia. Ministro, scusi, lei se ne va a Baia Domizia con Ciruzzo e Patrizia, a privacy, scusi. Se Ciruzzo vuole, se Ciruzzo ci mi dà il permesso, sì. E allora io vuol dire che farò questa fotografia, va bene? Va bene, allora chiediamo a Ciruzzo il permesso. Pronto, ragazzi? Ciruzzo, allora il ministro ci ha detto che se tu dai il permesso puoi inviarci la foto e possiamo pubblicarla sul nostro profilo Facebook Fuori Posto. Diciamo che ci penso, va bene? Ma come ci penso? Penso un po'. Ma che è una concessione che ci fai? Se la tira, Ciruzzo. Se c'è qualcosa? Ma che, i soldi? Che vuoi? No, dico una piccola cosa. Vabbè, ragazzi, forse. Dai, ma non fare il pezzetto, non fare il pezzetto. Vabbè, dai, senti, allora, anche oggi chi ci ascolta, Paolo, Antonio, Michele, che dicono? Francesca, Nicoletta, ci scrivono. Basta parlare, vogliamo le poesie. Vi faccio una poesia che è una bella poesia. Si chiama Bella, non lo so, comunque dai. Tre mesi senza di te. Ma non era una canzone questa? Questa no. Ho già sentito. No, questa qua era una canzone. Vabbè, lasciamo stare questa, facciamo un'altra, dai, facciamo. Ma scegliete voi, voi potete sentire. No, no, vai tre mesi dai, senza. Dai, non vogliamo tarparti le ali. 31 maggio? 31 maggio. Vai col 31 maggio. Vai. Che data è? Cosa è una ricorrenza? Sono collegati perché i tre mesi partono dal 31 maggio, capito? Bravo, No, grazie. Che intuizione, incredibile. Vabbè, ti faccio quest'altro, dai. Vai. Ciruzzo Tozzi in 31 maggio. Il 31 maggio. È il 31 maggio e questa è la stessa spiaggia dove ti ho incontrato ed è lo stesso mare color cioccolato. La stessa gente. Che schifo, cioè, un mare color cioccolato. Ma non è azzurro di solito. Cioè, stessa gente, gli stessi ombrelloni e per terra sempre le stesse scorze di melone. Su questa spiaggia dove tutto è uguale, manchi tu sola ed io sto male. Forse sarà perché non ci sei più, o forse mi avrà fatto male il ragù. Te la ricordi l'estate passata? Su quel canotto sembravi una fata, poi col bagnino le stavi a parlare, ma tu lo facevi per farmi sciattare. La nostra canzone, vieni, zucchiamo un gelato al limone. Ricordo che mi facevi un dispetto, sabbia bagnata dentro al costumetto. Ma scusa, non c'è anche una canzone che ricorda questa poesia? Si ricorda, cioè, qualcosa. Io mi ricordo, no, qualcosa. Che questa poesia ha una vaga somiglianza con Nunzia. Non so, la possiamo ascoltare un attimo? La spiaggia dove ci ho incontrato, lo stesso mare color cioccolato, la stessa gente, gli stessi ombrelloni, per terra sempre sti scorze mallona. Su questa spiaggia dove tutto è uguale, manchi tu sola ed io sto male. Forse sarà perché non ci sei più, forse m'avrà fatto male Raù. Guarda, io mi fermerei qui. Chiudetemi il collegamento con Ciruzzo. Cacciamolo via Ciruzzo Tozzi anche oggi. Anche perché poi imbroglia, vedi, spaccia canzoni per poesie, delle poesie per canzoni. Sì, ma poi come tratta il ministro Padoan, dai. Allora, approfittate della presenza del ministro Padoan a casa di Patrizia Baia Domizia. Se volete fargli domande, scriveteci ai fuoriposto@radio24.it, oppure un messaggio in segreteria telefonica allo 02 46 52 4182, o un sms o whatsapp al 349 238 6666. E poi, Umberto, cosa abbiamo di bello anche? La nostra pagina Facebook ufficiale, i Fuori Posto. Se volete vedere questa famosa foto di Ciruzzo Tozzi e il ministro dell'economia in carica, Piercarlo Padoan, sotto l'ombrellone insieme a Baia Domizia, non vi resta che andare sul nostro sito e ammirarla, tutta la sua bellezza. E ammirare questa bellissima foto, no? Intanto per oggi vi salutiamo, è stato un piacere. A domani con i Fuori Posto su Radio 24 a partire dalle 10.